piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. In viaggio con Tommy, alla scoperta dello straordinario perduto. Di Gianluca Nicoletti. Questo è l'habitat tipico di un mio pomeriggio, come tanti. Io sto a tastiera, scrivo, faccio quello che è il mio lavoro. In sottofondo ho un cartone animato, in questo caso Masha e Orso, potrebbe essere un cartone della Disney, potrebbe essere qualsiasi altra cosa che di solito guardano i bambini fino a 4-5 anni. Ma nel mio caso, a guardare il cartone animato accanto a me mentre scrivo è un ragazzo di 22 anni. Tommy, vieni un attimo papà, vieni dai. Mi fermo qua perché voglio lasciarvi il piacere della sorpresa. Questo è l'incipit, voi direte molto autocelebrativo, ma c'è una ragione, perché parlo di me, di mio figlio, del viaggio che farò con mio figlio, che sto facendo con mio figlio. Da oggi, dalla home del sito di Radio 24, vedrete che c'è il richiamo a un nuovo podcast. Vi auguro di ascoltarlo, perché sarà il primo di una serie di podcast in cui racconterò un viaggio che sto facendo in Italia, un viaggio che faccio assieme a mio figlio. Non perché voglia pubblicizzare me e mio figlio, è una storia come tante, è una storia che ha avuto la sua eco, perché è una storia che in sé diventa la maniera, il pretesto per portare alla luce le storie di tanti altri ragazzi come Tommy, che non hanno altro destino che quello di rimanere fantasmi quando raggiungono la maggiore età. E io devo molto ringraziare Radio 24 che mi sostiene in questa operazione. Ho deciso di fare un passo avanti. Ho detto che per ragazzi come Tommy, e lui sarà la prepista per tanti altri ragazzi, esiste il diritto a una dimensione più profonda che quella del semplice sostentamento. Quello che è già difficile, sembra impossibile dare a questi ragazzi, una vita dignitosa a cui possono stare assieme alle persone, avere una vita felice, potere in linea con quelle che sono le loro possibilità di relazionarsi e di avere un'idea del mondo che li circonda, essere soddisfatti nei loro bisogni primari. E questo sembra già un traguardo impossibile, però voglio di più. Vogliono che abbia anche loro diritto al bello, a essere contaminati con il bello, con ciò che è bello, esteticamente piacevole, esteticamente armonioso. Ciò che mi fa più terrore per le persone con disabilità, in particolare con disabilità psichica, cioè non autonome, è vederle recluse in dei posti orribili, dei posti che assomigliano a dei prigioni, a dei manicomi, ai refettori dei preti, che quanto di più triste possa esistere, di più antitetico alla felicità. E quindi cosa ho fatto? Ho portato mio figlio, che dipinge e disegna, in giro per l'Italia, alla ricerca di artisti, di collezionisti, di persone che amano il bello nella sua categoria difforme, nella sua categoria estetica della particolarità, dell'eccentricità. Se riuscirò a far contaminare le persone dai cervelli eccentrici, con gli artisti eccentrici, con i collezionisti di oggetti belli eccentrici, riuscirò a riscattare la dimensione dell'eccentricità come categoria privilegiata. Voglio che i nostri figli con cervelli strani diventino opere d'arte, perché soltanto agli artisti è permesso essere folli, e i nostri folli figli avranno dignità d'esistenza se li contaminiamo con l'arte. Di questo viaggio, di questo racconto che sto facendo grazie a Radio 24, esiste una declinazione ancora più potente, ancora più forte. Noi stiamo girando un film che sarà trasmesso nel canale Sky Arte e prodotto da Sky Arte. E Sky non è la prima volta che si occupa in maniera così intensa del sociale, secondo in chiave di declinazione artistica. Ricordate Tommy con gli altri, il primo film fatto e trasmesso su Sky Arte. E adesso con Sky stiamo facendo questa nuova avventura. Stiamo facendo un nuovo film attraverso la scoperta di paradigmi artistici nei quali possano comunque essere collegati i nostri ragazzi. Vi racconteremo settimana dopo settimana attraverso il podcast quello che è il backstage, il viaggio di questo film. Io, finita questa trasmissione, ripartirò. Domani sarò a Ischia, dopodomani sarò a Bari, saremo in altre città italiane. Io e Tommy e la troupe di Sky Arte, sempre con Massiliano Sbrolla, il nostro regista, riusciremo a raccontarvi quanto sarà stato possibile mettere in contatto, far godere e trovare similitudini con un cervello ribelle e con artisti e collezionisti ribelli. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melg le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Ecco, adesso finalmente avete la dimensione completa dell'avventura in cui vi ho coinvolto da alcune settimane. Voi ascoltatori di Melog, che seguite una trasmissione radiofonica, state partecipando a un progetto di costruzione di una dimensione artistica eccentrica che si compie attraverso i collezionisti, i grandi collezionisti che stanno raccogliendo le loro opere. Noi siamo stati giorni fa a Genova, nel Castello Mackenzie, dove c'è la casa d'aste Cambi. Abbiamo visto quello che sta arrivando, cose fantastiche, tute di astronauti russi che sono state veramente nello spazio, oggetti innominabili, di cui ho già dato qualche traccia, maschere, statue, rappresentazioni, bambole assassine, c'è di tutto e tutto sarà una grande asta di oggetti singolari. Ma questa grande asta sarà integrata e corroborata dagli oggetti straordinari e ribelli che ci state segnalando noi. Se andate nel sito asta.cervelliribelli.it, Cervelli Ribelli è il marchio sotto cui noi stiamo lavorando per creare questo evento, già potete mandare i vostri oggetti. I vostri oggetti saranno analizzati e valutati e potranno entrare anche loro in questa asta. Potrete vendervi ciò che avete di più ribelle a casa vostra e quello che voi avrete messo in questa asta parte sarà anche devoluto, a voi sarà dato il corrispettivo di quello che sarà il prezzo d'asta del vostro oggetto, parte però sarà data a finanziare un grosso progetto per creare un atelier artistico in cui ragazzi come Tommy potranno esprimersi attraverso la dimensione dell'arte. 800 24 0024, potete anche segnalare subito da subito, se pensate di avere a casa oggetti ribelli, come quello che ci segnala la nostra ascoltatrice Monica Arniotti. Monica, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è l'oggetto ribelle che lei pensa degno di partecipare alla nostra asta? Dunque, è un quadro, un dipinto non tanto grande, su legno, su cartone pressato, insomma, che è sempre stato nella nostra famiglia e un po' risponde a tutte i requisiti di cui voi parlavate in apertura di trasmissione. Allora, siccome l'ho davanti lo descrivo, provo a descriverlo. È una donna nuda. Prego. Che si guarda allo specchio, e una sua ancella, un'amica, non so bene, con un abito lungo, un abito classico, teatrale, le mostra uno specchio e si guarda allo specchio, immagino che sia quello, mentre stira sui capelli. Esatto, è lui. Questo quadro è della nostra famiglia da due generazioni, cioè era di mio padre, che attualmente è defunto, non c'è più, è sempre stato in casa, è sempre stato un po' ammantato da un'aura di mistero del come mai è arrivato in casa, eccetera, eccetera, e veniva raccontato da mio padre, che aveva anni fa, io ero una bambina, una galleria d'arte, e una sera un signore, diciamo anche lui un po' di dubbia provenienza, non si sapeva bene se facesse il ladro. Cioè una metà tra ricettatore e fornitore di oggetti a una galleria d'arte, ecco, diciamo così. Ma no, non si sapeva, era un personaggio un po' strano, un po' oscuro, insomma, diciamo. Un po' oscuro, esatto, tra il chiaro e l'oscuro, ecco, degli anni 60 di Milano, quindi insomma parliamo di tanti tanti anni fa. Arrivò una sera in galleria dicendo: ah, nascondimi questo quadro, nascondilo, nascondilo, nascondilo, tornerò a prenderlo, non guardare, non fare, cioè sembrava insomma quasi il Santo Graal. Preso un po' così alla sprovvista, raccontava mio padre, nasconde questo quadro, dice vabbè, e praticamente questo qua, questo signore un po' oscuro, non è mai più tornato, non si è mai più fatto rivedere. Il quadro poi, ma è morto, l'hanno cementificato, non se ne è saputo più niente. Non se ne è saputo più niente, anche noi pensavamo è morto, l'hanno arrestato, sarà è scomparso proprio, non si è e più. Il misterioso plico l'avete aperto, quindi il misterioso plico lo aprimmo, poi cioè, lo aprì mio padre dopo un anno o due, cioè lui conteneva dice, questo quadro che vedo avanti, conteneva io. Questo quadro con scritto dietro bozzetto della toilette di Pablo Picasso. A quel punto è stato. Era firmato Picasso o era scritto firmato. Così? No, firmato. Oddio, firmato, diciamo Picasso. Le gambotte, i piedotti, le cavigliotte della donna nuda, le demoiselle d'Avignon potrebbe anche ricordarlo, forse. Però sa, chiunque potrebbe fare una roba del genere. Ma chi potrebbe farlo chiunque, ovviamente non siamo nessuno di noi in famiglia esperti d'arte, quindi non ci lanciamo, non ci siamo mai lanciati. Però avete questo quadro che in famiglia avete attribuito a Picasso. Allora sentiamo, abbiamo un attimo un primo, non abbiamo una prova esatta, però seguiamo almeno una procedura. Tutti gli oggetti che ci mandate voi comunque vengono analizzati dagli esperti della casa d'aste cambi, che decidono se sono oggetti degni di entrare in un'asta, diciamo, con collezioni importanti, rinomate, che non siano soltanto cose da rigattire. Allora, ho al telefono Daniele Palazzoli, che è un esperto della casa d'aste cambi. Palazzoli, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è il criterio? Di fronte a un'opera del genere, attribuita a Picasso, che sembra talmente enorme che sa tanto di bufala, come ci si comporta? Seguendo una linea retta, proprio inequivocabile. Dunque, la cosa da fare, come se fosse matematica in questi casi, è ovviamente prima farsi mandare le immagini dell'opera con la storia, quindi guardare anche i retri e capire un attimino le provenienze. Poi io ho parlato con la signora, la saluto tra l'altro, diciamo che si legge sui giornali a volte di quadri antichi ritrovati in soffitta da persone che non pensavano neanche di averlo, lo stavano buttando nel cestino. Con le opere di moderno e contemporaneo è più difficile, se non quasi impossibile, più che altro perché esistono degli archivi che sono ancora in funzione, che ne so, per molti artisti, soprattutto se parliamo dell'antico, non c'è più nessuno autorizzato legalmente a rilasciare dei certificati di autenticità, no? Nel caso di Picasso, ad esempio, c'è un comitato che sta a Parigi che se ne occupa, quindi la prassi esatta da copione da seguire è quella, tralasciando poi la storia del quadro che diventa un po' quasi ambigua, no? È quella di sentire, diciamo la verità, dicendo. È il tipico Sola che dice: attenzione, te l'ho nascosto, chiuso così. Allora, e poi c'è scritto Picasso. Se uno va a vedere le opere, perché di toilette di Picasso sono state fatte dei bozzetti, questo è assolutamente così. Ricordo che uno andò in venduto e l'altro molto simile a questo, devo dire, se uno lo guarda o cerca su internet. Lei l'ha visto il quadro, diciamo, questo qua della signora? Io ancora non l'ho visto, ho visto le immagini. E assomiglia molto sia a una stampa che si vede spesso anche in vendita su internet, che a un'opera che andò venduta, penso ormai più di 20 anni fa, a circa $300,000. E poi giustamente, come diceva lei, ci sta anche il paragone per le demoiselles d'Avignon, perché parliamo più o meno dello stesso periodo, perché la toilette è del 1906. Quindi siamo lì, è un periodo proprio di cambiamento quasi completo. Sì, ma poi perché il quadro che ho citato è talmente famoso, alla fine uno disegna la donnetta nuda come la vede Picasso e potrebbe sembrare... Cioè, allora, No, dico, per fare l'avvocato del diavolo, per non dare subito l'attribuzione, potrebbe anche esserci. Quindi qual è la procedura che lei... Quanto... La procedura, io direi, per farla proprio come si dice, cioè secondo me la fortuna che abbiamo noi che ci occupiamo di moderno e contemporaneo, che ci possiamo interfacciare con delle persone che sono le uniche a poter dire se un'opera è autentica o non lo è di quell'artista. Quindi, a prescindere dai pareri personali, che anche a me in questo caso, anche un po' per la storia, suona un po' strana come cosa, Esiste nel caso di Picasso il comitato che sta a Parigi, si può contattare, tra l'altro credo che quello di Picasso sia anche gratuito, ti manda il materiale così come da richiesta sul sito e loro ti rispondono dicendoti guardi, grazie per il suo materiale, purtroppo l'opera, oppure l'opera è già pubblicata sui cataloghi, esistono dei cataloghi di Picasso importantissimi che costano anche 80-90 mila euro fatti da Zervos, faccio un esempio. Allora se noi avessimo, facciamo per paradosso, sono sì. Il primo a non crederci, messo le mani davvero su un Picasso originale, quale sarebbe il valore all'asta di questo quadro? Allora, adesso come adesso, secondo me per un'opera del genere sarebbe una di quelle cose che tu ti puoi trovare anche in catalogo stima richiesta, nel senso che sono quelle opere veramente rare. Nella mia testa, guardando le altre giudicazioni, si potrebbe collocare in base anche alla biografia, perché se viene fuori che è pubblicato in diversi cataloghi, però il problema è che lì si tratta anche di come è stata acquisita l'opera, non so se mi sono spiegato, però certo. Tolte tutte queste parentesi. Facciamo finta che ci sia pieno legittimo possesso. Bravissimo, io personalmente non lo valuterei mai meno di 300-400 mila euro. Va bene, signora Monica, segua la procedura, lei ha già contatto certo. Con l'esperto. Certo. Con tutti gli auguri, perché sarei il primo a esserne felice, se questa opera è autentica e lei può rivendicarne il legittimo possesso. Non ci speriamo neanche più di tanto, è stata lì per tanti anni in famiglia, può continuare però, lì, nel senso, è divertente anche la storia di come la stiamo raccontando noi. Ci fermiamo un istante, riprendiamo tra poco. Melog 800240024, stiamo parlando di questa operazione, chiamiamola operazione perché dire che semplicemente stiamo facendo un programma sarebbe riduttivo. Stiamo facendo un programma in diretta radiofonico che sta lanciando un suo derivato che è un podcast che potete trovare già subito visibile nell'home page di Radio 24 in Viaggio con Tommy, che è il backstage di un film che si sta girando con Sky Art, che racconterà l'immaginario artistico messo a contatto con un cervello ribelle, quello di un ragazzo autistico, che a sua volta sarà propedeutico a un'asta charity che sarà fatta il 2 aprile, in cui saranno messi all'asta appunto oggetti artistici presi da grandi collezioni, collezionisti di cose balzane e prese anche dagli ascoltatori della radio che partecipano attraverso un sito internet all'asta, fornendo oggetti, materiali concreti che vengono dalle loro case. Insomma, cosa volete di più? Laura Aurora, buongiorno. Buongiorno a lei. È la seconda ascoltatrice che chiamiamo oggi, che anche lei in maniera generosa e acuta ha segnalato degli oggetti ribelli che ha a casa propria attraverso il sito asta.cervelliribelli.it, che potranno anche loro ambire, se sono valutati come oggetti veramente singolari con un vero valore di storia, alla nostra asta. Allora, lei cosa propone, Laura? Allora, io propongo due pipe che sono appartenute a Gino Cervi, l'attore bolognese molto famoso, insomma. E io questi due oggetti li ho, brevemente riepilogo come mai li ho. Allora, Gino Cervi in un certo periodo fece come si chiamano allora, gli sceneggiati, uno sceneggiato in bianco e nero, il commissario Maigret, e per gli italiani. Erano gli anni in cui la televisione veramente alfabetizzava gli italiani, dava agli italiani anche strumenti di letteratura. Non è detto che il medio italiano conoscesse le opere di George Simenon, ma conobbe il commissario Maigret con la faccia di Gino Cervi. Quindi Gino Cervi era diventato il commissario Maigret. È vero, è vero. E io ho questi oggetti perché negli anni 70 i miei genitori gestivano un albergo nel centro storico di Bologna. E alla sera l'albergo, il bar dell'albergo era frequentato da delle persone, tra le quali c'era il fratello di Gino Cervi, che io ricordo benissimo nonostante fossi una ragazzina molto giovane, una bambinetta, avrà avuto 10-12 anni. Diciamo che lo sceneggiato andò dal 64 al 72, la regia era di Mario Landi, quindi erano gli anni in cui si girava e si produceva questo sceneggiato più o meno? Sì, più un pochino dopo, perché credo, se ben mi ricordo, che Gino Cervi fosse appena morto, insomma, che non ci fosse più, insomma, perché questo personaggio che, come le dicevo, io ricordo molto bene perché era un personaggio molto piuttosto eccentrico, vestito elegantemente, sembrava una persona d'altri tempi, col bastone, sigaro in bocca. Pochette è morto nel 74, nel 74 è morto Gino Cervi. Allora erano quegli anni, guardi, allora a cavallo di quegli anni, diciamo che precisamente non lo ricordo, però poteva essere attorno al 75, al 74, al 75. Quindi se lo ricordava, perché era un personaggio eccentrico, il fratello di Gino Cervi. Sì. Sì, molto molto eccentrico, aveva i capelli nerissimi, imbrillantinati. Un dandy, diciamo, un dandy. Sì, sì, qualcosa del genere, che tra l'altro raccontava di non aver mai lavorato in vita sua, perché comunque la sua famiglia e il fratello soprattutto avevano sempre provveduto al suo mantenimento. Vabbè, una bella storia. Sì, ricordo che si chiamasse Sandro Alessandro. E lui, insomma, frequentando il bar, aveva conosciuto mio padre, che era una persona molto simpatica, insomma, che intratteneva, si intratteneva anche a volte con i clienti, e si era affezionato a mio padre, che a quell'epoca fumava la pipa, e quindi lui decise, per stima, per amicizia nei confronti di mio padre, di regalargli, disse: ti porto due pipe che erano di mio fratello, e gli portò appunto queste due pipe che erano appartenute a suo fratello, gliele regalò. Eccolo a lei, a due pipe dell'attore, sì, Gino Cervi, che fumava la pipa, esatto, comunque, che ha interpretato, sì, il commissario Maigret, personaggio che fumava, sì, la pipa, portatela al fratello, che sarebbero, sì, apparse nel set delle inchieste del commissario Maigret, sì, che poi facilmente, sì, ritrova, perché le puntate sono anche online, poi si trovano attraverso le tech Rai. Insomma, è probabile che queste pipe siano realmente state nel set del commissario, sì, Maigret. Ma c'è qualche, sì, sigla, qualcosa che attesti la proprietà di Gino Cervi? Allora, una delle due riporta proprio una dedica che scrive "Special made for Gino Cervi", quindi evidentemente è stata realizzata espressamente per diciamo lui. I grandi costruttori di pipe, che sono due o tre case importanti in Italia, sì, le forcevano delle forniture speciali per i loro VIP, personaggi importanti. Quella era fatta apposta per Gino Cervi. Ecco, questa quindi credo sia, insomma, indiscutibile che sia sua. Nell'altra c'è solo la dicitura del modello, il numero di serie e la marca. Però vedendo dalla stessa fonte, almeno una sicuramente, sì, di Gino Cervi. Quindi, sì, la nostra ascoltatrice fornisce due pipe, di cui una sicuramente è siglata, appartenute, sì, a Gino Cervi, un grande attore italiano, importantissimo, era Peppone in Peppone Don Camillo, ma è importante anche per il commissario Maigret, che sono state anche sul set dello sceneggiato. Quindi hanno un valore storico e anche un valore legato allo spettacolo. Passiamo a un altro ascoltatore, Fausto Casi, buongiorno. Sono Fausto Casi, sono un consulente, diciamo, di storia della scienza strumentale antica, e da questa trasmissione è venuto... Sì, però la stiamo sentendo malissimo, guardi, io penso che dovremmo richiamarla. O lei sta fermo, non si muove. Sì, ecco, deve stare fermo, non deve muoversi, provi a stare, sì, immobile. Allora, ricordo, fondatore e direttore scientifico del MUMEC, che è il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Museo, esatto, che ospita migliaia di pezzi storici, promuove attività di divulgazione sul territorio. Lei cosa metterebbe all'asta del suo museo? Ecco, metterei una macchina alchemica, che è italiana, tutta italiana, e che è, diciamo così... Cioè serve a fabbricare l'oro, cos'è una macchina alchemica? È una macchina alchemica perché praticamente non c'ha uno scopo ben preciso, determinata per un argomento, diciamo, industriale o artigianale. Quindi o... si pensa che servisse per fare opere di trasmutazione metafisica? Allora, esatto, serve per fare una, diciamo, bilanciamenti come elemento di meccanico proprio molto complesso, che si è pensato nello studio che è stato fatto di questa macchina, che sono 20 anni che è di nostra, diciamo così, gestione qui da una parte, perché il museo è un museo di comunicazione. Questo qui è una delle tante cose curiose che diciamo mi sono comprato a suo tempo. Dove l'ha comprata lei? Da che fonte viene? Nella Fiera Antiquaria. Nella Fiera Antiquaria. Allora io la descrivo un attimo, perché la radio ha bisogno di immagini descritte. Sì. Allora, è come un missile di ottone, una forma di missile, sotto alla base ha una serie di strumentazioni, bilancieri, strani meccanismi. Sembra una macchina steampunk. Quei film che vedete che riproducono una tecnologia fantascientifica. Potrebbe sembrare una macchina del tempo, una macchina per entrare in altre dimensioni, una macchina che annulla le distanze fra l'umanità e il regno dei cieli, qualcosa di sicuramente magico, una macchina magica costruita da qualcuno che con questa macchina immaginava e pensava di sconfiggere alcune delle regole della fisica, probabilmente. Ovviamente, e quindi addirittura questo personaggio che l'ha costruita, che l'ha ideata, che poi dopo l'ha anche costruita, è un, si dichiarava lui stesso nella targhetta che è compresa nella macchina che abbiamo trovato, diciamo così, nella parete attaccata, al professor Durante Bartolomeo, inventore brevettato premiato con medaglia, fabbricante di orologi, meccanico e fabbricatore in casse d'orologi, Genova. Ecco, quindi però non è un orologio questo che non segna, no, il tempo. No, assolutamente no, però era un grande meccanico, un grande evidentemente un artigiano che faceva delle cose. Ecco, ma lei ha provato a farla camminare, cosa fa questa macchina? Sì, allora questa macchina dovrebbe dosare dei liquidi che vengono da quel cilindro che è nella parte centrale, che viene riempito con una specie di imbuto, e questo da lì in poi viene dosato, cioè c'è tutto un meccanismo che ruota e che sono come delle pale di una tramoggia, diciamo così, che scarica questo liquido nel sotto attraverso un altro imbuto, e ogni volta che scarica c'è un contatore che ha diciamo un contatore decadico, cioè il contatore di 10 in 10, che arriva dalle unità alle decine, centinaia, migliaia, fino alle centinaia di migliaia addirittura, per cui tutta questa cosa che è in rotazione, che ogni volta che scarica c'è un conteggio diciamo così. Allora è interessante la suggestione, contatore. La suggestione si può costruire su questa macchina, sicuramente è una macchina eclettica fatta da un inventore strano, sicuramente ha una funzione che non è concretamente legata a attività che noi conosciamo, come misurare il tempo, misurare gli elementi. È una macchina che doveva, secondo una formula che non c'è dato di conoscere, dosare alcuni elementi in una sorta di combinazione particolare, e tutto questo potrebbe sembrare in realtà una sorta di lettura meccanica della grande opera. La grande opera per gli alchimisti altro non era che una metafora di un'operazione di uscita dal mondo, uscita dalla consuetudine, rottura con le dimensioni spazio-temporale, era un'iniziazione, e si lavorava su elementi naturali che esistevano comunque, lo zolfo, il carbone, elementi basilari, capito, il mercurio, che erano metafore però di stati interiori su cui bisognava lavorare per uscire da questa dimensione umana. Era una macchina per uscire dall'umanità. Oggi può essere una macchina per andare in dimensioni parallele, può essere una macchina che apre degli starghette, può essere una macchina che ti manda in trance e ti fa fare un bel viaggio, non lo so bene, o è semplicemente una macchina folle costruita da un folle, e mi sta bene. Le raffigurazioni di tutti questi oggetti che noi vi stiamo descrivendo, naturalmente, le trovate sul sito di Radio 24. Ci fermiamo ancora un istante. A bordo della nuova BMW serie 1 116 DM Sport con cambio automatico ti sentirai così. Bella atmosfera, yeah, yeah, yeah, yeah. Ti prego non mi uccidere il muta. Guidala senza acquistarla con il leasing Y-Buy da 200 euro al mese. TAN 1,90, TAEG 3,59. Fino al 31 marzo. Salvo approvazione BMW Financial Services. Fogli informativi su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Melog 800240024, mi stanno chiedendo gli ascoltatori cosa raffiguri la foto di copertina del podcast che abbiamo lanciato questa mattina sulla home di Radio 24, in viaggio con Tommy. È mio figlio che sta in mezzo a due tute di cosmonauti russi, quella sulla destra è stata realmente nello spazio, che saranno messe all'asta in questa asta dei cervelli ribelli, di cui stiamo raccogliendo oggetti tramite il contributo dei nostri ascoltatore di Radio 24. È inserito in un grottesco sintetico, una sorta di grotta di postumi artificiale costruita sotto un castello meraviglioso che sta a Genova, Castello Mackenzie, fatto da lo stesso architetto Coppedè, quello che ha fatto, che ha progettato e costruito il quartiere Coppedè a Roma. È un delirio grottesco. A un certo punto questo signore ha deciso di avere un castello rinascimentale, e anche se apparteneva comunque al secolo scorso, si è fatto costruire un castello rinascimentale. rinascimentale, bellissimo, con le torri, con i merli, con le sigarette. Sotto ha costruito, in questo castello Mackenzie, che oggi è la dimora della casa d'aste Cambi, che ci sta gestendo l'asta, ha fatto costruire delle grotte con stalattiti, stalagmiti, cunicoli. Perché? Non lo so, non so cosa ci facesse. Noi siamo andati a visitarla, abbiamo trovato le tute da cosmonauta, ci siamo portate via perché le metteremo all'asta. Come probabilmente metteremo all'asta anche gli oggetti, sarete bambini allontanati dalla radio, perché parliamo di cose molto, molto arde in questo momento, che ci offre Bianca Colombo. Bianca Colombo, buongiorno. Ecco, come al solito, i nostri Bianca c'è? Sì, certo, ecco. Buongiorno. Allora, Bianca, lei cosa vorrebbe mettere all'asta? Allora, è una collezione fatta da mio marito negli anni Ottanta, che proviene da un collezionista di Bologna. Parliamo sempre di Bologna. Allora, questa persona era un rappresentante e frequentava le case di tolleranza fino a quando sono state fino a che è il 58, esatto. Allora, siccome mio marito era una persona che era molto interessata alle collezioni in genere, io tratto antiquariato, parlando con questa persona che aveva offerto questa collezione, si è entusiasmato e abbiamo comprato questa collezione di oggetti. Allora, la maggior parte sono delle cose che arrivano proprio da Bologna, in questo senso ci sono delle raccolte di marchette italiane. Spieghiamo bene la marchetta. La marchetta è un gettone che veniva dato dalla maîtresse al cliente, che pagava una certa cifra in base a quello che voleva effettuare. La sera la prostituta tornava giù, tante marchette aveva e tanta era la sua percentuale sul suo lavoro. Esattamente, bravo. Da questo nasce così. Il termine marchetta. Tutti che fai le marchette non hanno capito. La marchetta era un tassellino di legno, cos'era? Un gettone tipo quelli del telefono in un certo senso. Allora, su molte marchette ci sono anche i nomi delle case. Ad esempio noi abbiamo delle teche dove sono posizionate queste marchette e ci sono i nomi delle case, soprattutto di Bologna, la Rina di Bologna, che era una casa molto famosa, la Irma, che era un'altra casa molto famosa, sempre di Bologna. Diciamo che la maîtresse dava sempre il nome alla casa, era il marchio, il brand. Esattamente. In una di queste teche c'è anche addirittura una borsettina dove la maîtresse teneva le ricevute dei pagamenti di questa casa Irma. Oltretutto, tra queste cose ci sono anche c'è una cosa particolare che è un pannello con su scritto Bertiera 5 ed era un pannello dove c'è un campanello, una piccola grata dove il cliente suonava e si accendeva una lucetta rossa negli anni di guerra, perché non si poteva tenere accese le luci per i bombardamenti, e quindi suonando gli si accendeva la luce rossa e poteva entrare. Era anche, diciamo, dicevano, almeno mi hanno detto amici più anziani di me che mi raccontano le gesta dei almeno per loro, che era anche l'entrata del prete. Quando entrava il prete facevano uscire tutte le persone nella sala d'attesa, entrava il prete e entrava da questa porta segreta, perché anche i preti ci andavano. Esattamente, è vero anche questo, perché tra i vari aneddoti che io ho sentito dai vari avventori, le spiego, noi abbiamo sempre fatto, abbiamo cominciato negli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, a fare delle mostre inerenti agli arredi delle case di tolleranza. Ecco, lei cosa metterebbe all'asta di queste cose, di questa collezione di arredi di case di tolleranza? Allora, c'è un tarifario originale degli anni 40, dove ci sono le tariffe per la marchetta, per la mezz'ora e per l'ora. Sì. Poi ci sono queste teche che contengono collezioni di marchette italiane, marchette americane. Allora, sulle marchette italiane o c'era il nome della casa, oppure c'era il nome e magari anche una tariffa. In quelle americane invece ci sono addirittura delle scritte piuttosto esplicite. Vabbè, chiaramente gli americani sono molto più grammatisti, sulla marchetta segnavano la il tipo di prestazione corrispondeva a quell'esborso. Bene, abbiamo chiuso in bellezza. Chi vuole acquistare una collezione di marchette o decimeri da casino si prepari alla nostra asta, ci saranno anche quelli. Siamo laici, non abbiamo paura di nulla. Alla prossima.